Only that, yo, La Batois, 2009, Yo, depressed walking, you're mad about the life you have. Fuck everything, fuck everyone, you might react. Your blood spins, wanna blast off like gunship. They tell you to back off that drunk shit, it's dumb shit. But one shit's true, solutions exist, but none fits you. The producers are pissed, they're losing their grip. You got booze in your fist, a hard kid to reach. Skipping school with his friends, a drastic case, you can't relate with people. Can't escape, what you have to face is evil. Hide the mirror, you mask that you die. Fear, hard and shit, but the thought of suicide is near. You hate your life, you pass few nights with peers. Screw life, you're better off with 2 pints of beer. A few fights, you lose sight of what the truth's like. In the moonlight, the true kind of confused life. Questa vita, mira come nata. Prendo in quello specchio, da un riflesso di ghiaccio. Parla di un mondo vecchio di cui resta qualche coccio. L'infanzia nell'orecchio ti sussurra, non mi piace. Mentre uno sbocciale tacito già sogna un primo bacio. Trovi labbra ferite, va la tua lingua che taglia. Provi a tirare la corda sul collo di una bottiglia. Ti chiedi se in famiglia riescano ancora a capirti. Temi quel sentirti vuota, che siano gli altri a riempirti. Nei tuoi panni troppo larghi, messi per fare posto a tutto quello che non dici. E preferisci stia nascosto, pure a costo di negarti i desideri, di slegarli dai pensieri, legarli nello ieri. Giorni neri in cui non c'eri, ma sei tu che li avveleni. Cerchi zieri in altri cieli più sereni, mentre tieni quegli scleri come figli stretti ai seni, o lasciati senza freni. Mentre tieni nuovi scheletri da fare prigionieri. Questa vita mira come è nata. L'alcool dans les veines, la rage qui brûle comme du kérosène. Avec le rein se freine, mais tous déchaînent son gêne. Chaque week-end se répète la même scène. Augmente les plaintes et augmente sa peine. Caractère de porcelaine, la débris lui souffle son haleine. N'a plus la quinzaine, mais il reste à la traîne. La migraine le dévaste comme tout ce système. Les problèmes persistent sans qu'il apprenne. Ils s'en prennent comme un tombeau. Le soir il rentre à tâtons. Il attend, rien ne change donc rien de bon. Une autre boisson, oxygène pour ses poumons. Ça gêne ses parents, altercation, rix, voilà son domaine. Énergumène qu'on écoute dès qu'il malmène. Il en a rien à foutre s'il reste obscène. Il aimerait passer outre mais la routine l'enchaîne. La vie le dégoûte et il aimerait qu'on comprenne. Questa vita finira come nata.